lampi di traccia, e questo è il loco dove passò quel cuore per l'amara novella e il mio nome. Poi che non ho più speme di ricovrar pregando, piangendo e sospirando il perduto mio bene, che possi io più se non volgermi a voi? Selve soavi un tempo, cor forto a pie martir, mentre a ciel piacque, per farmi per pietà meco languire. Al mio languire. Voi vi doleste con monti e lagrimaste, voi sassi al dipartir del nostro sole, ed io con voi lagrimerò mai sempre. E mai sempre darò ai gloria, ai pianto, cortese ecco amorosa, che sconsolata sei, e consolarmi vuoi. Così grave mia fera sventura, non ho pianto, però tanto che passi. Se gli occhi d'argo avessi, espandessero tutti un mar di pianto, non fora il luogo conforme a tanti guai. Sai del mio mal pietà, benignità, ma mentre io mi querelo de perché mi rispondi sol con gli ultimi accenti, rendimi tutti integri miei. Queste amiche piagge sopra l'altar del cuore, lo spirito acceso in sacrificio offersi. Tu bella grazie sue cortese il cielo, mentre ad ogni altra dei suoi don fu scarso. D'ogni lingua, ogni fastosa men, quanto d'onor più degna. Or l'altre donne son superbe e perfide, ver chi le adora dispietate instabili. Prive di senno e d'ogni pensier nobile, sono fra di lor non l'oran sì, quindi non fia già mai che per vil femmina amor con aureo stral il cor dolor in preda, così ti donio figlio. Non è consiglio di generoso petto servir al proprio affetto. Me periglio già sovrastar ti veggio, onde movo dal ciel per darti aita. Or tu m'ascolta e n'avrai lode vita. Cortese, al maggior uomo arrivi, che ha disperato fine, con estremo dolore, m'avea condotto già sdegno ed amore. ciò che vuoi n'imponi. Troppo, troppo gioisti di tua lieta ventura, or troppo piangi tua sorte acerba e dura. Ancor non sai come nulla qua giù diletta e dura. Dunque, se goder brami immortal vita, vientene me qual ciel ca se stelle angheggerai le sue sembianze belle, bellico tanto padre sarei non degno figlio se non seguissi il tuo fedel consiglio.